E quello che a me interessa è parlare di Catherine Mansfield, essere umano con una ricerca spirituale molto particolare, molto profonda, nonostante la sua giovane età. Lei nacque a Wellington, in Nuova Zelanda, alla fine dell'Ottocento più o meno, e visse poco, visse molto poco, morì a 34 anni, quindi entro il primo ventennio del Novecento. E come moltissime donne, grandi antenate, morì giovane e Virginia Woolf, scusate, Simone de Beauvoir sostiene, e io mi sento in risonanza con questo, che queste donne così forti, così esploratrici, così tenaci nel voler far valere la loro idea, nel voler far sentire la loro voce, dovevano lottare talmente tanto contro il pregiudizio della casta, contro il pregiudizio patriarcale che si esaurivano. In effetti, la maggior parte di loro sono proprio morte di consunzione. Consunzione era il nome domestico che si usava per la tubercolosi, ma capite che la parola consunzione significa proprio consumarsi, per cui queste donne letteralmente si consumavano, usavano tutta la loro energia per riuscire a crearsi un loro spazio, una loro nicchia all'interno di un mondo androcentrico, patriarcale. A ricavarsi un ruolo che non fosse quello stereotipo di moglie, madre, sorella, a far sentire la loro voce. Per fare questo usavano davvero tutta la loro energia fino a che non si praticamente si consumavano. Sono poche quelle che sono riuscite a vivere fino a tarda età, meno ancora quelle che hanno vissuto una vita felice. Ce ne sono, ma sono davvero poche. La maggior parte hanno vissuto vite veramente travagliate, molto brevi, perché non, ci voleva talmente tanta energia per fare quello che hanno fatto, che alla fine non gliene rimaneva più per campare a lungo. Ma nei pochi anni che hanno vissuto, sono riuscite a intraprendere un cammino talmente straordinario da diventare per noi delle vere maestre, se noi le guardiamo in un modo diverso da quello di semplici scrittrici o pittrici o qualunque roba finisca in ici, e se noi le interpretiamo come maestre di vita. Perché ispirarci a loro in questo momento ci dà veramente direzione, ci dà lucidità, ci dà coraggio, ci dà umiltà tantissima, ci ridimensiona moltissimo i nostri, tra virgolette, problemi rispetto a quello che hanno dovuto affrontare loro, per fare, una piccolissima parte rispetto a quello che possiamo fare noi. Quindi, Catherine, la chiameremo Cass. Cass era il nome che le davano le persone a lei vicine, quindi le sue amicizie più intime, la famiglia e il marito. Come tutte le ragazze di buona famiglia, figlie di coloni, perché chiaramente la sua famiglia era arrivata in Nuova Zelanda dall'Inghilterra, quindi come tutte le ragazzine di buona famiglia, venne poi mandata a Londra a studiare adolescente, perché questo si usava. A studiare cosa? A studiare come diventare una brava moglie modello del suo rango, no? Questo era quello che studiavano le ragazzine, insomma, non studiavano certo per diventare medico, avvocato, studiavano, imparavano a ricamare, imparavano a suonare il pianoforte, imparavano un po' di francese, un po' di geografia, giusto per essere in grado di sostenere una conversazione brillante nei salotti. Questo era quello che ci si aspettava da loro. Poi, alla fine del percorso di studi, tornò a Wellington, ma non riuscì più a vivere lì. Si rese conto che non poteva restare lì e volle tornare a Londra. Era bravissima a scuola. Cass, già a 8-9 anni aveva già vinto dei premi per i suoi primi racconti, aveva già fondato il giornalino della scuola, quindi aveva fin da piccolina aveva questa vena molto sviluppata per la scrittura, che per lei era una sorta di meditazione. Ecco, scrivere per lei era una sorta di meditazione, era un po' un modo per chiarire quello che le succedeva dentro. E quindi volle tornare a Londra, per fare la scrittrice. La famiglia di Cass era molto ricca, ma nonostante questo il padre, che era banchiere, le passò pochissimo denaro quando lei decise di tornare a Londra, tanto che lei non ci sopravviveva con quel poco denaro, e lì probabilmente lì concepì, come molte altre, come le sorelle Bronte, come Virginia Frances Sterrett, come tante artiste che vissero di pochissimo, lì probabilmente concepì la tubercolosi, perché la tubercolosi è una malattia che attacca persone che non si nutrono abbastanza e non si scaldano abbastanza. E lei a Londra, per poter sopravvivere, fece un po' di tutto, faceva teatro, cantava, insomma, cercava di ramazzare qualche sterlina, e senza riuscire mai comunque a coprire le esigenze, cioè, ci stava proprio al pelo, e arrivò addirittura a sposarsi pensando di trovare un marito che potesse, non mi piace usare la parola mantenere, ma un marito che potesse comunque provvedere ai suoi costi e provvederla di ciò che le serviva perché lei potesse scrivere. E quindi fece un matrimonio di interesse e lo sciolse il giorno dopo. Non riuscì neanche ad arrivare al talamo nuziale perché la cosa la disgustò talmente che abbandonò praticamente il marito subito e scappò. E quindi il matrimonio non fu consumato e durò un giorno. Ecco, io mi sono presa degli appunti così riesco a fare un discorso un pochino articolato. Lei conobbe la sua amica del cuore. Dovete sapere che tutte queste grandi donne, queste grandi antenate, hanno tutte quante avuto una, tra virgolette, amica del cuore, cioè come fosse una loro controparte femminina. Perché io credo che tutte voi sappiate qual è l'importanza di avere una compagna di cammino con cui interagire, no? Con cui potersi fare da specchio. È importante avere un marito, un compagno, ma è importantissimo avere una compagna, una persona dello stesso sesso, perché questo ci aiuta grandemente. E tutte quante le grandi antenate, da Gabriella Mistral a Virginia Woolf, a Hildegarda di Bingen, cioè proprio dall'inizio, se noi vogliamo risalire fino a Brigitte di Kildare, ebbero una loro controparte femminina, una loro amica del cuore, che era poi veramente la compagna che le aiutò e che le sostenne fino all'ultimo. Ovviamente tutte loro, dalla critica patriarcale, furono e sono sempre, tra virgolette, considerate, omosessuali. Ma a me la cosa non interessa, che sia o che non sia, non sono affari nostri. Quello che io ritengo importante è invece vedere quest'altro aspetto, cioè veramente la nostra nemesi, la nostra controparte spirituale femminina che ci aiuta a camminare. E anche lei, anche Cass, ebbe questa amica che lei conobbe quando arrivò la prima volta nel college da ragazzina, avevano più o meno la stessa età, questa amica che si chiamava Aida Baker, e che lei soprannominò Leslie Moore. Per qualche motivo lei la chiamava Leslie, non la chiamava Aida. Questa Leslie è presente in tutta la vita di Cass, esattamente come l'amica, compagna di Gabriella Mistral fu presente, in questo momento non ricordo il nome, ma una scrittrice californiana fu presente fino agli ultimi giorni di Gabriella Mistral, come Vita Sackville West, per esempio, per Virginia Woolf. Furono come dire, delle certezze, degli appoggi per queste grandi donne che probabilmente non sarebbero riuscite senza un'amica, una compagna affidata a fare quello che hanno fatto. Di fatto Leslie restò vicina a Cass fino all'ultimo, anche quando il marito praticamente la abbandonò, nonostante le dichiarazioni d'amore, il marito a un certo punto non resse, dopo lo vedremo. E il marito praticamente la scaricò, mentre Leslie le rimase vicina. Ecco, dalla critica patriarcale, questa sua amica è stata questa Aida, alias Leslie, viene definita come una nevrotica, una persona fragile di nervi, In realtà non fu affatto così, perché una persona nevrotica e fragile di nervi non riesce a stare per tanti anni accanto a una donna malata nella maniera in cui era malata Cass, perché Cass era malata di tubercolosi e specialmente negli ultimi anni si consumava, non riusciva più a camminare, aveva bisogno delle stampelle, non riusciva a alzarsi dal letto, continuava a vomitare sangue, quindi insomma è difficile stare accanto a una persona così e starci in modo forte, in modo lucido, in modo che l'altra persona si possa aggrappare. Per cui la mia idea è che non fosse per niente nevrotica e che probabilmente avesse un tipo di sensibilità o di amore nei confronti di Cass, che chiaramente la critica patriarcale non può capire, perché per il sistema patriarcale tutto quello che è rapporto tra donne o è conflitto o è amore. O è amore lesbico, amore omosessuale, cioè questo rapporto di amicizia profonda, spirituale, non viene concepito, non viene capito. E questa è una delle cose che io vorrei riscoprire, riscattare, rivalorizzare, questa profonda amicizia tra donne che ha sostenuto tutte le nostre antenate nei momenti critici della loro vita. Sappiamo, per esempio, benissimo che Hildegarda di Bingen fu sostenuta tantissimo da Richardis von Stade, la sua pupilla, la sua amica, la sua allieva preferita, la sua figlia del cuore e così tante altre. Quindi Leslie, a mio avviso, non era per niente una nevrotica. Di fatto, ah sì, grazie Giorgia. Sì, quando un minuto prima me lo dici che stacchiamo e andiamo a fare la pipì. Grazie mille. Ecco, c'è una serie della BBC in 6 puntate fatta molto bene su Catherine Mansfield, purtroppo è in inglese, per cui però è comprensibile, quindi chiunque di voi volesse tentare di vederla, perché dà una visione molto, secondo me, una visione molto femminile della vita e del lavoro di Cass. E in questa versione televisiva, io ho notato un dettaglio che nelle varie biografie e nei vari studi non viene detto, nemmeno diciamo nella critica che Virginia Woolf scrisse di Catherine Mansfield. In questa versione sceneggiata, Leslie, la sua amica, va al funerale, si vede proprio la bara di Cass e tutti come possiamo chiamarli, tutti questi grandi personaggi, tutti maschi chiaramente, colleghi del marito che nel frattempo era diventato un direttore di una rivista, un rinomato critico letterario, quindi tutti i suoi colleghi, tutti questi palloni gonfiati, tronfi, tutti riuniti intorno a un tavolo a discutere del perché delle scelte di Cass e di quanto le fosse o meno servito andare nell'istituto di Gurgel, fa passare i suoi ultimi anni, insomma, tutto un tagli e cuci delle sue scelte. Leslie a tavola con loro a un certo punto si alza, batte proprio i pugni sulla tavola, l'unica donna in mezzo a questo consesso di uomini tronfi, e dice: io non tollero, non vi permetto di giudicare una donna che non è qui a difendere il suo operato. Voi non potete capire, nessuno di noi può capire, può sapere quello che ha fatto, ma in ogni caso è ingiusto che noi stiamo, che voi, perché lei era sempre stata zitta fino a quel momento, che voi stiate qui a giudicare, a tagliare, a cucire il suo lavoro senza che lei sia presente a spiegare, no? Non lo trovo giusto. E prende, se ne va. Ed è una scena dolcissima perché lei va poi esce, va in un'altra stanza dove c'è la bara e appoggia uno scialle sulla bara pensando che Cass potesse avere freddo in quel momento. Ed è una frase dolcissima quella che Leslie dice alla sua amica, perché le dice: It's only me, darling. It's only me. Sono solo io, cara. Come dire, non sono tutta quella ciurma di là che sta facendo a pezzi la tua vita. It's only, non dice it's me, darling. Sono io, cara. Dice it's only me. In quel only sono solo io, cara, c'è tutto il segreto della vita di Cass e del suo rapporto con Leslie, secondo me colto in una maniera eccezionale, proprio in questi pochi frame in cui si comprende bene qual era il rapporto tra loro due, che cosa Kess riteneva importante la semplicità dei piccoli gesti, la sacralità dei piccoli gesti e del perché Leslie sia riuscita a starle vicino nei momenti più drammatici della sua vita, proprio come manifestazione di sorellanza più squisita, più meravigliosa, no? Come dire, sono solo io, non ti spaventare, non devi giustificarti con me, perché io so chi sei, ti conosco, ti sono stata vicino, non occorre che tu dimostri nulla a me. Questo è quello che io ho letto in quella frase, It's only me, darling, che credo dovrebbe diventare proprio un mantra della sorellanza, perché è importante che tra noi impariamo ad essere autentiche. E a mostrarci per quello che davvero siamo nei cerchi, no? Quindi non più con quelle maschere che ci sono state appiccicate dal sistema patriarcale. Ecco, ci mettiamo in pausa, Giorgia? 5 minuti, allora vado avanti ancora un po', ok? Dunque, questa stessa Leslie. Lei la riprende in uno dei suoi racconti più belli che si intitola Psicologia. Tra l'altro, se siete poi incuriosite sui racconti, sull'opera di Catherine Mansfield, trovate tantissimi racconti suoi che ho registrato in audio sul canale La Scuola delle Donne su YouTube e incluso l'ultimo pezzo del suo diario. Non l'ho registrato tutto, ho registrato l'ultima parte dove proprio lei racconta di suo pugno che cosa le successe quando era nel centro spirituale, nella comunità spirituale di Bourges, racconta perché ci andò e racconta come visse quegli ultimi 3 mesi. Ecco, quella parte l'ho letta perché mi sembrava davvero interessante, ma andiamo con ordine. Quindi, in questo racconto Psychology praticamente si vede chiaramente lei, Cass, che è una descrittrice di momenti. Cass non descrive storie, Cass descrive stati d'animo, piccoli momenti, piccole emozioni con una maestria tale per cui ci dà proprio l'idea dell'emozione femminile come frattale, con tutte le sue sfaccettature. In questo racconto lei descrive una sua serata io penso che sia autobiografico perché il personaggio femminile ricorda molto lei e il personaggio maschile ricorda molto quello che poi sarà suo marito, John Middleton Murray, dove i due sono seduti di fronte in un salotto e non riescono ad essere sinceri l'uno con l'altra. Si perdono tutta la serata in discorsi astrusi sulla letteratura, sulla psicologia, sulla filosofia e si vede proprio, si sente la voce fuori campo di ognuno di loro che invece vorrebbe dire tutt'altro, vorrebbe dire ti amo, ti desidero, dammi un bacio, stringimi, mentre in realtà la bocca parlava di cose astruse perché non riuscivano a liberarsi. A superare questo diaframma, no, di convenienza, di la decenza vittoriana, tra virgolette, quella di cui Jane Austen parla con una maestria eccezionale, no? Quel doversi comportare in maniera concia, non riescono a superarlo. E quindi lui poi se ne va e sono entrambi frustrati perché non sono riusciti a dirsi quello che davvero avrebbero voluto dirsi e tutte e due aspettavano che fosse l'altro a fare il primo passo. Lui si aspettava che lei lo trattenesse, lei si aspettava che lui facesse un cenno morale, lui se ne va. Lei è arrabbiatissima, si dà della stupida per non essere riuscita ad essere onesta e sincera, e in quel momento sente il campanello che suona e si precipita sperando che sia lui che torna indietro per dirle finalmente quello che prova, perché entrambi sanno che cosa provano, è solo che non hanno il coraggio di dirselo. Lei apre la porta e chi c'è di là? C'è Leslie con un mazzo di violette, sfatte perché le aveva comprate alla sera. Lei dice, questa mattina erano fresche lì, carina, con queste violette tutte fradici. Dice, ma questa mattina erano fresche, così mi ha detto la donna da cui le ho comprate. E le offre le violette. E in un primo momento Cass ci rimane male perché si aspettava che fosse Murray, ma quando lei gli dà queste violette, Leslie, sì, grazie, finisco. Quando Leslie le dà queste violette e le dice, la donna mi ha detto che erano fresche stamattina, in quel momento Cass ha un'apertura di cuore, o meglio il personaggio del racconto che poi è lei, ha un'apertura di cuore e abbraccia forte Leslie, la abbraccia e le dice, no, tu sei la mia amica perfetta, grazie che sei tornata, grazie che mi dai questo che mi offri questo atto d'amore. E sei la mia amica perfetta, Cass lo dirà spesso a Leslie, tutte le volte che si renderà conto che Leslie è l'unica che le sta vicino fino alla fine. Sale le scale, arriva in camera e comincia a tossire sempre più forte, fino a che non comincia a sputare sangue in maniera abbondante e praticamente soffoca nel suo stesso sangue, nel giro di mezz'ora muore. La critica patriarcale dice, ovviamente, dà tutta la colpa al fatto che è tutta colpa di come lei visse nella comunità di Gurdjieff, perché le prove a cui si sottopose erano troppe, perché la vita era troppo dura, e ovviamente la critica patriarcale non potrebbe mai ammettere che invece lei stava migliorando in quei 3 mesi perché la sua anima stava meglio, no? Perché sarebbe come aspettarsi che Wikipedia facesse un articolo positivo sulla medicina olistica o sull'omeopatia, capite? Siamo a quello stesso livello. Quindi chiaramente per la critica patriarcale androcentrica tutta la colpa è stata del fatto che negli ultimi 3 mesi lei aveva vissuto in maniera troppo provante. In realtà lei andò da Gurdjieff proprio perché non migliorava con le medicine, quindi si rendeva conto che non stava migliorando, altrimenti non ci sarebbe andata. Quello che succede però di strano e che è molto interessante indagare è la testimonianza che lascia il marito, che fu l'ultimo a vederla, e lui scrive, e questo è riportato nel suo diario, scrive: "Non ho mai visto né vedrò mai un essere più bello di lei in quel giorno della sua morte. Era come se la squisita perfezione che era sempre stata in lei l'avesse completamente penetrata. Per usare le sue stesse parole, l'ultimo granello di zavorra, le ultime tracce di degradazione terrena si erano staccate da lei per sempre." Quindi lei aveva compiuto davvero una trasmutazione alchemica. A detta del suo stesso marito, che non ci credeva, lei era trasfigurata, era bellissima, era come se avesse incarnato il suo corpo di luce. Ovviamente lui conclude da uomo, conclude con una frase tipicamente patriarcale, e cioè che questa purificazione le era costata la vita. Ovviamente noi che siamo sul cammino spirituale, che siamo in un cerchio di donne, capiamo bene che non è sbagliato dire che aveva perduto la vita per purificarsi. Lei semplicemente aveva cambiato livello di coscienza, quindi si era trasferita da un piano di esistenza a un altro piano di esistenza. Per fare questo aveva lasciato il corpo, perché nel piano di esistenza dove si era trasferita, questo corpo non le serviva più. Questa è la visione che possiamo avere noi che siamo sedute in questo cerchio. Quindi lei visse proprio sulla sua pelle una trasmutazione alchemica, ebbe il coraggio di andare fino in fondo, di sperimentare in prima persona, l'abbandonare tutto. Lei abbandonò tutto fino ad arrivare ad abbandonare il corpo, ma nel momento in cui abbandonò il corpo, lei aveva trovato la grazia, davvero. E aveva trovato quello che cercava. Quindi, quando lei lasciò il corpo, lei aveva davvero compiuto. Aveva onorato la sua missione di incarnazione, aveva compiuto quello che doveva compiere, e l'opera che lei ci ha lasciato non manca di nulla. Se noi leggiamo l'opera di Catherine Mansfield, a parte che ha lasciato tantissime cose perché fu molto prolifica nei pochi anni che lavorò, ma noi ci rendiamo conto che non è incompiuta. Non è che dà l'impressione del chissà, poverina, se fosse vissuta di più, chissà che cosa avrebbe fatto. Abbiamo proprio la sensazione, come capita per Sabina Spierrein o per tante altre come le Bronte, per esempio, che abbia scritto esattamente quello che doveva, non una sillaba di più, non una sillaba di meno, e che quindi il suo percorso in questo piano di esistenza si sia chiuso come doveva essere, si sia chiuso nella grazia, perché lei si trasmutò, divenne proprio, divenne crisalide, divenne farfalla. E quando lasciò il corpo, lo lasciò nella pienezza, nell'interezza. Ecco perché il marito la vede trasfigurata fin dalla mattina, fin da quando lui arriva. Quindi non solamente nel momento della morte, lui la vede trasfigurata durante tutta la giornata che passa da lei. Tant'è vero che quasi si convince che lei sia guarita. Però lei si rende conto che lui non capisce quello che lei ha vissuto dentro, questo suo collegarsi con l'unità, questo suo scoprire una nuova modalità di vita, più autentica, più sincera. Lei si rende conto che lui semplicemente aspetta che lei guarisca per portarla via da lì e riportarla nella vita di prima, nella vita brillante del mondo intellettuale londinese. Ed è proprio all'interno di questo mondo brillante intellettuale londinese che apriamo una finestra interessante che è il rapporto di Cass con Virginia Woolf, un'altra grandissima maestra spirituale che però ebbe un percorso diverso, perché Virginia Woolf non accettò la sua spiritualità, la sua medianità. Virginia era una medium sicuramente, lei diceva che sentiva le voci, ma rifiutò di ammetterlo, viveva in un cerchio di intellettuali, il cerchio di Bloomsbury, il circolo di Bloomsbury che era di intellettuali radicali, quindi assolutamente atei. E perciò non poteva o non voleva ammettere questo aspetto spirituale, della sua personalità, Virginia. Tant'è vero che muore suicida, lo sapete, a 56 anni sente queste voci, non accetta, non accoglie, non ammette il fatto che siano canalizzazioni, che sia la voce che le arriva in channeling. Tutte noi che credo sentiamo le voci, io sento le voci da quando sono nata, ma non penso di essere pazza, so cosa sono queste voci, sono le voci degli spiriti, della dea, delle sorelle che ci parlano. Ecco, Virginia, questo non lo ammise mai e secondo me questo fu uno dei motivi che la portarono a suicidarsi, non perché era pazza, ma perché si rese conto che da lucida, da intellettuale non poteva fare più di quello che fece per le donne, per i diritti delle donne, e quindi decise di porre fine. Secondo me, Virginia invidiò Cass. Le due si conobbero, che erano più o meno tutte qua, tutte e due sulla trentina, anche se Catherine era più giovane di Virginia, erano già entrambe famose. Cass fu affascinata da Virginia, nel suo diario ne parla quasi con amore, con reverenza, ne parla con grande affetto, mentre Virginia rimase sempre un po' sulle sue, non esprime mai affetto nei confronti di Catherine, anche se poi ne parla nel suo libro, nelle sue conferenze, Virginia scrive una serie di ritratti di donne, di grandi donne, sue contemporanee, e in questi ritratti inserisce anche Catherine Mansfield, ne parla con grandissimo rispetto, con grandissima empatia. Ma dopo che Cass se n'era già andata, aveva lasciato il corpo. Durante gli anni della loro frequentazione, Virginia rimane sempre abbastanza fredda, abbastanza sulle sue, nonostante questo la stima. A livello professionale sicuramente, tant'è vero che Virginia pubblica i racconti di Catherine Mansfield con la sua casa editrice. Sapete che Virginia e suo marito avevano una casa editrice che era la Hogarth Press, che pubblicò tutti i romanzi di Virginia Woolf. Quindi era anche un'editrice e insisté Virginia per pubblicare i racconti di Catherine. Questo è bello, questo rapporto di sorellanza. Virginia era consapevole che Cass fosse in qualche modo riuscita a fare un passettino in più di lei. E nonostante questo, accettò di aiutarla, non ebbe neanche per un attimo paura di essere oscurata dalla figura di Catherine Mansfield. Perché? Perché Virginia Woolf inventò, diciamo, cominciò questo nuovo modo di scrivere femminino, possiamo chiamarlo così, cioè un modo di scrittura che non tiene conto del dipanarsi di una storia, ma tiene conto delle emozioni. Se voi avete provato a leggere i romanzi di Virginia Woolf, è difficile seguirli perché non c'è una trama, non c'è una storia, quindi il nostro cervello duale razionale fa fatica a seguire questo modo di scrivere. In realtà Virginia Woolf sosteneva che la trama è volgare, che quello che vale la pena di seguire è la connessione dei pensieri. Infatti, i suoi romanzi più famosi, come La signora Dalloway, per esempio, di Virginia Woolf, sono scritti nell'arco di una giornata. Catherine Mansfield riuscì a perfezionare questo. Io li vedo proprio come se fossero due step, di una stessa intenzione, ossia riformare il modo di scrivere portandolo a misura di donna, quindi facendo in modo che la donna scrivesse secondo il sentire femminino che abbiamo perduto perché da 8.000 anni ci addestrano a pensare come uomini. Quindi Virginia cercava di recuperare questo modo di scrittura, Catherine riuscì a perfezionarlo. riuscì a perfezionarlo perché riuscì a definire le pennellate, riuscì a dare, come dire, uno sfondo, una tridimensionalità finita a quello che invece in Virginia erano, secondo me, dei tentativi. Questa però è la mia opinione, quindi ve la passo semplicemente come mia. Io ho la sensazione che Catherine, forse perché era così malata, forse perché sentiva, per tanti anni sentì proprio la morte come la sua compagna di vita, perché la morte era con lei, quindi lei era come se fosse arrivata al nucleo in molto più tempo, perché sentiva che aveva poco tempo e doveva farlo in fretta e non aveva paura di sperimentare con il suo corpo. Nel suo diario è molto lucida, lei descrive Catherine Mansfield, descrive le varie tappe della sua malattia, descrive che si chiede di che cosa ha paura, descrive la sua paura, si chiede che cosa sia essere malata, essere sana, si fa proprio, si viviseziona in una maniera così, così lucida, ma anche così spietata, da veramente farci pensare quasi a un corso di self-help, no? Come quando noi prendiamo il nostro diario e cerchiamo di sviscerare quello che ci sta succedendo durante i corsi che facciamo, che teniamo o ai quali partecipiamo come alunne. Ecco, quindi Cass aveva poco tempo, riuscì in pochi anni ad arrivare dove Virginia, secondo me, non arrivò. Quindi a rendere perfetto questo modo di scrivere femminino. E io vi consiglio di andarvi ad ascoltare i racconti, se non volete leggerli, di andarveli ad ascoltare su YouTube, sul canale della Scuola delle Donne, perché vi renderete conto che davvero il modo di scrivere di Catherine Mansfield è particolare, è veramente un modo spirituale di analizzare la caduta di una piuma e con tutti i significati che lei scorge, la psicologia delle persone, l'enorme empatia, l'enorme compassione, l'enorme spiritualità che lei mette in ogni parola che scrive. Quindi io credo che Virginia in realtà l'abbia apprezzata molto. Lei stessa diceva che Catherine Mansfield era l'unica che avrebbe potuto essere sua concorrente e ebbero questo, diciamo, questo rapporto, questa relazione intellettuale. Non ebbero scambi spirituali perché Virginia probabilmente non glielo consentì, ma io credo che ammirò moltissimo la scelta di Catherine di andare da Gurdjieff e che in qualche modo la invidiò per aver avuto la forza di tentare, cioè di andare fino in fondo in questa sua strada. Ecco, Cass morì a 34 anni, dopo 3 mesi nella comunità di Gurdjieff.